E benvenuti alla settima puntata di Cialtroni nello spazio. Pa pa pa pa pa. Ma a questo punto tu devi dire che cos'è Cialtroni nello spazio. È la fantastica trasmissione radio musical informatico culturale del Circo Lab. Tutte le settimane su Radio Onda d'Urto. Abbiamo una novità. Sì, non andremo più in onda il venerdì alle 16. Da questa settimana inizieremo a essere in onda con la puntata originale, la prima che potete ascoltare, il mercoledì attorno alle 13.15, e poi troveremo uno spazio repliche durante la notte della settimana, oppure compariremo all'improvviso quando voi non ve lo aspettate e state pensando di ascoltare della tranquilla musica di De André, invece ci sarà magari Cialtroni nello spazio. Quindi se state ascoltando questa puntata di venerdì, non la ascolterete più la prossima volta. Se invece la state ascoltando di mercoledì, vuol dire che siamo già stati spostati di mercoledì. Ok, allora un saluto a tutti, io sono Alessandro. Oggi andremo a parlare di un progetto. Molto. Vedo che c'è sempre qualcuno che cerca di riportarci sulla retta via e di parlare di cose serie. Comunque sì, hai ragione. Alessandro, qual è la scaletta di oggi? Allora, oggi andiamo a parlare di un progetto che si chiama Wikipedia. È un progetto molto importante, è il tentativo di produrre un'enciclopedia o comunque una serie di raccolte di definizioni, di informazioni, esattamente come un'enciclopedia cartacea, prodotta liberamente da tutti, e in cui tutti possono scrivere e cui ognuno si può incaricare di validare le informazioni. Poi, come software, prenderemo in considerazione un altro programma componente il pacchetto OpenOffice, che si chiama OpenCalc, e il corrispettivo di Excel. E poi ci sarà l'ennesimo pippone, come si autodefinisce lui, di Alessandro, che ci parlerà del secondo processo per abuso della posizione di monopolio della Microsoft, giusto? Non è vero, Marco non ha capito. Oggi ne parleremo la prossima volta, probabilmente. Oggi parliamo dei decreti urbani, dell'ex decreto urbani, ora legge dello Stato. Dell'iter che ha avuto e probabilmente dell'iter futuro che avrà, visto che è una legge approvata a detta degli stessi votanti, approvata sbagliata, quindi verrà ridiscussa, non si sa ancora bene in che modo. E per il momento ci sentiamo un brano scaricato trovato attraverso il motore di ricerca Ogle, di cui abbiamo già dato il link, di cui è presente il link sul nostro sito. Dunque il brano è dei Ragazzi Rifa, il loro sito è www.ragazzirifa.it, e è un brano ska punk scanzonato, e ce lo andiamo a sentire di gusto. Che non t'accorgerai che sta al tuo fianco, poi più non lo sarà, e non ne sai perché. Se è capitato a te, con ciò che hai fatto non fa effetto, non fa effetto, e ti capiterà che ti maledirai, perché tu proprio a lei confiderai dei dubbi e dei perché. Ciò che è dentro te, ma non ti arrenderai, non ci proverai, non ci proverai. Non chiuderla in un pugno, no, non ce n'è bisogno, se c'è qualcosa resterà. Tutto è già stato dato, tutto è già stato dato. aspetto, è il tempo che reciderà. Non chiuderla in un pugno, non ce n'è bisogno, se c'è qualcosa resterà. Tutto è già stato dato, tutto è già stato detto, è il tempo che reciderà. E rieccoci dopo questo fantastico pezzo dei Raga Sirifa, non so la pronuncia, e niente, cominciamo. Raga Sirifa, ragazzi Sirifa, no, non lo so. Il sito dei Raga Sirifa è www.ragasirifa.it, lo citiamo, e comunque lo troverete anche sul sito, diciamo, sulle pagine del sito del Circolab, che parlano appunto della nostra trasmissione, che è www.circolab.net/progetti/cialtroni nello spazio. C'è il link direttamente sulla pagina principale, cercatelo sulla destra in basso. O comunque in due o tre clic riuscireste ad arrivarci, penso. Ce la fa anche Alessandro, quindi penso ce la fanno tutti. E niente, allora, il progetto di cui volevamo parlarvi è il progetto di Wikipedia o Wikipedia. Che cos'è Wikipedia? Wikipedia è un progetto per creare una enciclopedia nel web. Creare un'enciclopedia pubblicata sul web che venga appunto, tutte le voci vengano inserite dalle persone e non da un autore singolo, diciamo un progetto collaborativo per creare un'enciclopedia disponibile. Un'autogestione dell'enciclopedia, insomma. Esatto. E che cosa significa utilizzare Wikipedia? Noi che volevamo fare un attimo i fighi con questa trasmissione, ci siamo detti, ma che cos'è un'enciclopedia? E allora siamo andati ad esempio sul sito di Wikipedia e abbiamo cercato la parola enciclopedia e abbiamo ottenuto logico per un'enciclopedia, la storia, un articolo che ci dice che cos'è l'enciclopedia, quando è stata inventata, in particolare è stato un progetto affidato a Diderot. Alessandro, leggi tu che non ci vedo da qui. Allora, vabbè, quello che bene o male abbiamo studiato tutti e che Marco non si ricordava, il progetto dell'enciclopedia così come la conosciamo oggi nasce in Francia. Era un progetto che sarebbe stato affidato a Diderot come sotto il nome di Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, o Enciclopédie, opera pubblicata a Parigi tra il 751 e il 772, e a cui hanno partecipato altri illustri appartenenti alla corrente dell'illuminismo come Voltaire, D'Alembert, Rousseau e così via. E questa è un po' la definizione che viene riportata da Wikipedia. Ecco, ma se questa definizione a me non fosse soddisfacente, io pensassi che c'è qualcosa per esempio da aggiungere, per esempio, non lo so, qualcosa da aggiungere sugli altri che non sono citati, degli più prestigiosi intellettuali del tempo che hanno appunto collaborato, quindi per esempio vorresti aggiungere, vabbè, Voltaire c'è già, però mettiamo che qualcuno avesse scritto questa voce senza scrivere Voltaire, io volessi aggiungerlo, come potrei farlo? Beh, diciamo, questo è appunto il bello del progetto Wikipedia, per cui semplicemente quando ci troviamo di fronte a una pagina di una definizione possiamo decidere di cliccare sul bottoncino modifica, e cliccando sul bottoncino modifica ci viene visualizzato il codice, la definizione, e abbiamo la possibilità di modificarla al momento e andare a mettere le nostre modifiche, quello che noi pensiamo che sia giusto mettere per questa voce, all'interno della pagina. Le modifiche vengono pubblicate immediatamente, però viene segnalato a coloro che hanno già scritto questa pagina inizialmente che qualcuno è entrato nella pagina e ha aggiunto delle cose, e questi vagliano le varie scelte, decidono se integrare oppure aprire una discussione con la persona che ha deciso di mettere questa cosa, dicendo no, questo non va qui, andrebbe da un'altra parte o cose del genere. Diciamo, si crea una sorta di comunità di persone che va a modificare ad esempio questa pagina della enciclopedia, e diciamo a quel punto otteniamo il risultato costruttivo di aver aggiunto delle informazioni in più e di collaborare in più persone per una definizione di un'enciclopedia. Ecco, io ho fatto clic su modifica e vedo che alcune parole, invece che essere segnate normalmente, sono segnate tra parentesi quadre. Per esempio, nella definizione che abbiamo letto prima c'è una descrizione della storia dell'enciclopedia. Si dice che nel Medioevo si amò particolarmente organizzare le nozioni e la parola Medioevo è tra parentesi quadre quando ho fatto clic su modifica. Come mai? Allora, questo qua è il potere dell'HTML o dell'ipertesto. Perché comunque l'enciclopedia cartacea l'abbiamo presente tutti in grandi volumoni e tanta voglia di sfogliare quando si cerca qualcosa. Il vantaggio del web, del linguaggio in cui è scritto il web, è che è possibile spostarsi da una pagina all'altra, chiamiamola così, semplicemente con un click. Quindi le parole che vengono segnate tra parentesi quadre non sono altro che dei collegamenti a dei concetti che hanno già una definizione all'interno dell'enciclopedia. Quindi è molto più facile da navigare, da scorrere, da sfogliare rispetto a un'enciclopedia cartacea. Tra l'altro, vabbè, a proposito di Wikipedia, la quantità di articoli che sono presenti su Wikipedia è impressionante. Si parla di sui 10.000 articoli italiani, mentre invece nelle versioni inglese siamo arrivati a, mi sembra, sui 500.000 articoli, una cosa del genere, un numero veramente spropositato di definizioni che spaziano in tutti i possibili campi, dalla musica alla storia alla geografia. E a differenza di quello che si potrebbe pensare di un progetto, diciamo, così autogestito, non vige l'anarchia su Wikipedia, nel senso che le definizioni sono spesso rigorose e le informazioni contenute sono generalmente piuttosto attendibili, proprio perché il fatto che molte persone ci lavorino fa sì che l'informazione sia più e più volte corretta e riconsiderata, anche con piccole variazioni. Spesso e volentieri anche chi scrive le informazioni è un esperto del settore, o comunque, soprattutto per le nozioni più complesse, è una persona che magari, non so, ha scritto una tesi di laurea su un argomento particolare e, diciamo, è spinto naturalmente a pubblicare queste informazioni, queste sue ricerche, questa produzione all'interno di un contesto, di una definizione o di un personaggio, insomma, quel genere di informazioni che si trovano all'interno di un'enciclopedia. Correggo un attimo un'informazione sbagliata che avevo dato prima: gli articoli in italiano sono 35.000, mentre invece nella versione inglese sono, l'ho visto prima, 482.000. Allora, per arrivare a Wikipedia nella versione italiana è www.wikipedia, scritto www.wikipedia.org, no, .it, scusate, oppure itwikipedia.org, una delle due. La base di oggi, la base che stiamo usando oggi, l'abbiamo scaricata dal sito music, scritto con la K, agnula.org, su cui si possono trovare numerosi file gratuiti già raccolti per genere. Il gruppo che stiamo ascoltando ha un nome tedesco che probabilmente pronuncerò male, anzi sicuramente, Dar Synapsen Spriggen Commando, forse Francesco ci riesce meglio di me. Synapsen sprechen Kommando. Ok. E adesso andiamo a parlare di OpenCalc. Sì, come abbiamo già introdotto la volta scorsa, abbiamo parlato un po' della suite di OpenOffice, che è un'alternativa libera e soprattutto gratuita a programmi più noti e anche un po' pieni di problemi che, di Microsoft, diffusissimi come Microsoft Word e Microsoft Excel, l'altra volta abbiamo parlato proprio di OpenOffice Writer e oggi invece andremo a parlare del foglio di calcolo che appunto si chiama OpenCalc, un'alternativa libera e gratuita a Excel, con la possibilità di fare molte delle cose che Excel fa e di poter anche costruire dei sia a aprire che salvare in formati compatibili con Excel, quindi senza troppi problemi, possibilità di scambiare dati, poi anche più o meno le stesse funzioni, tranne come avevamo già evidenziato anche l'altra volta con l'alternativa di Word, ovvero OpenOffice Writer, le possibilità di macro, che non è possibile utilizzare le macro all'interno di OpenOffice. Sostanzialmente non ci sono particolari problemi una volta che viene installato il software, i menu sono molto simili, non ci sono particolari differenze da segnalare. Sì, in effetti è vero. Allora, OpenCalc si propone come l'alternativa a Excel di Microsoft Office. Come Excel è un ottimo prodotto, nel senso che Calc rispetto a Writer è decisamente più stabile, ha un comportamento più lineare e è molto più efficace nel fare il proprio lavoro, cioè il foglio di calcolo, ovvero lavorare su dei dati che vengono inseriti, quindi creare statistiche piuttosto che creare grafici, ha un set di funzioni che è più ricco di quello di Excel e non supporta purtroppo il Visual Basic, ma ha un proprio linguaggio per scrivere macro. Comunque non è una grande mancanza, visto che normalmente nel foglio di calcolo non viene utilizzato questo genere di funzioni, se non per dei listini commerciali o cose di questo tipo. Come per Excel, Calc è un foglio di calcolo, quindi non è pensato per disegnare tabelle, come spesso viene utilizzato, perché comunque è piuttosto scomodo. Se ci serve disegnare una tabella, in senso solo incolonnare dei dati, è molto meglio usare il Writer. Calc è pensato invece proprio per lavorare sui dati, quindi appunto per raccogliere informazioni, creare statistiche, ordinarle, cose di questo genere. Yeah. Ah, ricordiamo che la suite OpenOffice è a codice sorgente aperto, quindi è possibile per chiunque poterci lavorare. Questo ha creato con il tempo delle questioni abbastanza interessanti, soprattutto nelle scuole. Ad esempio, una scuola di Reggio Emilia si è messa a fare un progetto di collaborazione con OpenOffice nella parte italiana e durante le ore di italiano hanno iniziato a costruire un dizionario dei sinonimi di OpenOffice. Quindi questa è una delle tante opportunità e possibilità che vengono date dal mettere insieme le materie, quindi gli studenti che nell'ora di italiano imparano non solo i sinonimi, ma imparano a costruire un programma che permetta di vagliare dei sinonimi, e quindi collaborano, mettono a disposizione questo per tutti, perché adesso noi possiamo avere dei miglioramenti nel dizionario dei sinonimi di OpenOffice proprio perché questi studenti l'hanno fatto, e sono anche cresciuti culturalmente perché hanno avuto la possibilità di partecipare innanzitutto a un progetto informatico, che è una cosa che non spesso capita all'interno delle ore di italiano, ma poi soprattutto anche concretizzare la lezione di italiano in una maniera utile e disponibile per tutti, che quindi sicuramente è stato un motivo di crescita per molti di questi studenti. Andiamo a sentire un altro pezzo musicale dei Ragazzi Riffa, Tutto Cambia. E dopodiché saremo pronti per il famoso pippone. Parliamo della legge Urbani. Non ridete. Fare la siglettina benvenuti nel pippone. No, in realtà l'abbiamo chiamato pippone perché Alessandro, che si è è sempre troppo cattivo con se stesso e dice che quando parla lui fa il pippone, invece no, non è vero. Anzi, scriveteci, che sul nostro sito potete scriversi e dite che vi piace tanto quando Alessandro parla. Allora, no, beh, il discorso come rientra nei vari discorsi che si fanno riguardo ai, che, come quello che abbiamo fatto la settimana scorsa sui brevetti, e perché comunque sono questioni che passano dal tecnico al legale, e molto più spesso riguardano il legale o politico, e di tecnico hanno veramente poco. Esattamente come la legge Urbani, scritta fondamentalmente da degli incompetenti e diciamo però degli incompetenti in malafede. In malafede, e esattamente, scritta da incompetenti in malafede e osteggiata comunque trattata in Parlamento da altri incompetenti, meno in malafede, ma comunque con dei scarsissimi risultati. Dunque, la legge Urbani è ormai un argomento dell'anno passato, è nato come decreto legge, facendo molto discutere, e si è poi tramutato in legge, la legge 171 del 2004, e prevede una serie di variazioni della precedente legge sul diritto d'autore, e in qualche altra nozione in più riguardo al qualche altro vincolo in più riguardo alla trasmissione di informazioni per mezzo informatico. Allora, per quanto riguarda le modifiche al diritto d'autore sulla proprietà privata, viene corretto il termine lucro, ovvero viene considerato reato la duplicazione commessa per uso non personale e a scopo di lucro, come diceva la vecchia legge, in profitto, ovvero non deve essere più necessario, non è più punito chi vende e chi produce per vendere materiale piratato, ma tutti quelli che ne hanno un qualche ritorno. Per cui, se voi lo doppiate a un amico per una forma di scambio, anche quello è reato, punito alla stessa stregua del commerciante di pirateria. E già qui è evidente la sproporzione. Altro argomento pesante riguardo alla legge Urbani sono i forti vincoli che vengono dati, in senso di responsabilità, agli SP, che sono tutte quelle aziende o quei gruppi, anche non sempre sono aziende, che forniscono dei servizi al web, ovvero spazio web o connessione, eccetera eccetera. Ad esempio, ne abbiamo parlato di un servizio che di uno di questi ISP, che è Numerica, che è un collettivo fondamentalmente, quindi non è una società. E agli ISP viene derogata vengono incaricati gli ISP di raccogliere tutta una serie di informazioni, di monitorare il traffico dei loro utenti, e hanno la responsabilità diretta di quello che i loro utenti fanno. Non solo, hanno pure che comunque avevano già prima in un certo qual modo, hanno pure la responsabilità di denunciare il comportamento scorretto dei propri utenti, trasformandosi di fatto in agenti di polizia, di investigazione, e questo ovviamente cozza con i diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione. Altra pesantissima novità del decreto Urbani è scritto, tra l'altro la maggior parte di queste decisioni sono state scritte nell'articolo 1 della legge, quindi sono proprio l'obiettivo di questa legge, riguarda il cosiddetto bollino digitale, ovvero praticamente dall'uscita della legge Urbani tutte le opere di ingegno che stanno sotto copyright, quindi non stiamo parlando di brevetti ancora, devono essere iscritte alla SIAE, E questo vuol dire che chi decide di produrre del materiale di qualsiasi tipo, un gruppo come quelli che vi stiamo facendo ascoltare, che producono musica ma non la vendono e quindi tendenzialmente non hanno soldi per iscriversi o meglio ancora non vogliono iscriversi alla SIAE, non possono far circolare il loro materiale, perché tutto quello che circola in Italia deve essere registrato dalla SIAE come prodotto d'ingegno, altrimenti non è legale. Arriviamo al paradosso che subito dopo l'uscita della legge Urbani, del decreto Urbani, il signor Urbani è stato denunciato perché sul suo sito aveva appunto cioè il paradosso proprio della legge, per cui le pagine che lui aveva scritto sul suo sito non erano registrate, non sotto appunto copyright. Registrate sotto copyright, sotto questioni SIAE appunto, e quindi addirittura lui stesso ha fatto una legge contro di sé, un conflitto, cioè, di interesse alla rovescia, si potrebbe dire. Esattamente. Altra modifica inclusa nella legge, che ha una conseguenza diretta sugli utenti, di cui si saranno accorti bene o male tutti l'anno passato, è l'incremento della cosiddetta tassa per il delinquente presunto. Ovvero, quando voi comprate un CD, un DVD, una cassetta, una videocassetta o qualunque supporto magnetico, un hard disk per archivare informazioni, pagate una tassa alla SIAE, perché si presume che una certa percentuale di questi prodotti venduti venga utilizzato per duplicare illegalmente del materiale registrato, e quindi le case discografiche sostanzialmente pretendono la gabella. Cosa curiosa è che la tassa viene estesa pure ai masterizzatori, cioè a quelle cose che servono per scrivere i supporti, che potrebbero essere benissimo usate per altri scopi. E questa cosa è tutta italiana, tant'è che un gruppo di persone ha messo in piedi un sito di vendita online. Non vogliamo fare pubblicità, ma è solo per fare un esempio della stupidità della legge. Il sito www.dvd-italia.de vende online dalla Germania supporti magnetici senza la gabella, e che hanno un costo inferiore, considerando che questa tassa è riuscita a aumentare del 100 o del 300% il costo di questi supporti. Beh, vediamo ad esempio che un CD da 900 megabyte, un CD masterizzabile da 900 mega, costa 19 centesimi. In Italia come minimo deve costare 30 centesimi di tassa più i 19, infatti in Italia abbiamo i CD che rivendono in negozi a 50 centesimi. Ovviamente comprandolo all'ingrosso. E a proposito di questi soldi vanno incamerati direttamente dalla SIAE. Quindi quando noi appunto compriamo un CD masterizzato, questi 30 centesimi vanno alla SIAE, che decide da sola come gestirseli. Vi raccomando di andare a vedere sul sito di Rayport, che Rayport è una trasmissione della RAI, se mi fate vedere l'indirizzo. Allora, www.rayport.rai.it, e andate a cercare nelle vecchie trasmissioni la trascrizione della puntata dove parlano della SIAE. Lì veramente, cioè, se non c'è da ridere, c'è da piangere, perché ci sono una serie di domande fatte a dirigenti della SIAE, tipo come mai il 30% degli incassi sconosciuti, vabbè, non sto qua a tirare a lungo, comunque il 30% di un determinato tipo di incassi che la SIAE prende va a finire al liscio, forse perché c'è nel consiglio direttivo della SIAE un tizio che si chiama Casadei o tante altre cose del genere. Quindi date un'occhiata prima a questo, appunto, sul sito di www.report.rai.it, la trascrizione di quella puntata di Report, perché è veramente comica. Un'ultima cosa, abbiamo appunto citato un minimo all'inizio l'iter parlamentare, dunque il decreto Urbani è stato convertito in legge, la numero 72. Sì, il numero 72, il decreto numero 72 è stato convertito in legge. Durante la sua conversione in legge sono stati prodotti tutta una serie di emendamenti da parte del centro-sinistra, e in particolare dal senatore Cortina dei Verdi. Cortiana, scusa, hai ragione. E, al momento della votazione però è stato sotto promessa di una revisione a breve successiva alla pubblicazione, tutti questi emendamenti sono stati ritirati. Sostanzialmente adesso ci troviamo una legge considerata sbagliata sia da chi l'ha promulgata sia da chi l'ha osteggiata, una legge dimenticata perché del decreto urbano ormai non si parla più e che comunque è tuttora in vigore, per cui anche le modifiche considerate indispensabili, come appunto quella del riutilizzo della definizione del lucro e non più di quella di profitto, di fatto non sono ancora in Parlamento, non sono ancora in agenda e rischiano di essere dimenticate, quindi è estremamente importante anche dopo un anno ritornare a parlare di questa legge. Ed è molto importante parlare di questa legge, quindi lo abbiamo fatto, era anche l'ultimo argomento di questa puntata. Adesso tra pochi istanti il via alla nostra fantastica sigla e anche la settima puntata si concluderà così, speriamo di avervi divertito, comunque di avervi insegnato qualcosa o magari insomma insegnateci qualcosa voi attraverso il nostro sito che potete trovare su www.circolab.net, seguite il link verso la trasmissione Cialtroni nello spazio. E mi raccomando, seguite anche il link di La Tua, dove potete compilare un piccolo forum dove potete inviarci dei messaggi, sono estremamente graditi e anzi richiesti. Un salutone e buona giornata.